Che diavolo ci facevano a quell'età seduti a quel tavolo? Non avevano nemmeno più voglia di isolarsi con la PlayStation portatile. Era chiaro che non avrebbero dovuto essere lì. Ma questa storia dei genitori, amici dei figli di altri genitori, porta a fare tanti errori. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Quello di cui sono stato testimone ieri sera, che è quello che vi racconto oggi, è una di quelle cose che non mi riguardano da vicino, che mi riguardano personalmente, o almeno non in questo momento della mia vita, insomma. E sto parlando del rapporto tra figli adolescenti e genitori. Con grande stupore, io in questi giorni ho scoperto che c'è una fascia di ascoltatori molto giovani che sentono questo programma. Un po' perché le sentono le madri in macchina, un po' perché ci arrivano non so come, però ci sono ascoltatori molto giovani. E so chiaramente che ci sono madri e padri che sono pieni di figli in età adolescenziale che ascoltano questa radio e questa fascia oraria. Ieri però, durante una cena in cui ero con genitori e figli proprio in quell'età, ho assistito a delle scene che erano a metà tra la commedia e il dramma. Cioè, le cose che dicono i figli ai genitori e le cose che i genitori non riescono a dire ai figli tra i 13, 15 e 17 anni sono stupefacenti. Io oggi avrei potuto chiamare un esperto di psicologia, no? Avrei potuto leggere un saggio che parla di adolescenza, ad esempio. Avrei potuto citare i dolori del giovane Werther, invece no. E invece oggi voglio fare quello che faccio sempre. Chiederlo a voi. A voi che avete dei figli ingestibili, che vi stupiscono, vi spiazzano e vi insegnano tutti i giorni qualcosa. Ma anche e soprattutto a voi, figli adolescenti, che non so per quale motivo siete all'ascolto, che siete delle mosche bianche, quindi alle 4 del pomeriggio non siete su internet a scaricare musica, non siete in camera ad assumere stupefacenti, ma siete misteriosamente all'ascolto di questo programma, oggi, adesso, alle 16:09. Che siete figli adolescenti problematici o genitori in panne con i vostri figli e volete raccontarmi quali sono i problemi e le incomprensioni maggiori di questo rapporto, io sono qui. E il numero è quello, 800240024, per chiamare in diretta, che è gratis, o altrimenti un sms, che è il 349-238-6666. Questa cosa è cominciata un paio di giorni fa e poi me la sono portata dietro ieri sera durante la cena che vi racconterò a breve. Il fatto che ci sono moltissimi, vabbè moltissimi sto esagerando, però diversi ragazzi tra i 12, 13, 14, 15 anni in età adolescenziale, quindi direi in prima adolescenza, credo credo che l'età sia identificabile con la prima adolescenza, che ascoltano questo programma. E visto che ieri ho assistito a delle scene abbastanza divertenti, mi piacerebbe proprio sentire ragazzi giovani, ragazzi che hanno che stanno facendo la terza media, la prima superiore, la seconda media, comunque che sono esattamente in quell'età lì, e vorrei sapere quali sono le cose che non capite e che mal sopportate dai vostri genitori. 800240024. Con gli sms magari siete più bravi. 349-238-6666. Ma anche i genitori, so che semplicemente a quest'ora di solito le mamme sono a prendere i figli fuori da scuola e spesso i figli ascoltano questo programma per questo motivo. Se magari siete insieme in automobile e volete raccontarmi a vicenda cos'è che non capite di vostro figlio, di vostra madre, di vostro padre, cos'è che proprio non vi fate andare giù, 800240024 oppure 349-238-6666. Allora vi faccio un esempio. Loretta mi scrive: ciao Matteo, ho due figlie femmine, la piccola è ancora troppo piccola e sembra non somigliarmi per niente. Nella grande invece io vedo i miei difetti e questo mi dà un grande fastidio. La sensazione è quella di avere toppato qualcosa. Milena, sentirlo parlare, vederlo reagire come facevo io con i miei genitori mi fa sentire ridicola. Qui è esattamente lo stesso tema, cioè i figli ci assomigliano molto di più di quanto immaginiamo e i genitori ci assomigliano molto di più di quanto immaginiamo. Marta, tutto di lui mi sorprende, scrive Marta. Dai pantaloni bassi, con i boxer che spuntano, i capelli super riccioloni, l'iPod sempre in mano e un buon libro di Coelho. E già, mi sembra Marta che tu, insomma, il fatto che abbia un libro in mano, dal rap a tutto volume nell'auricolare, momenti di studio a voce alta, comprendo tutto e condivido poco. E questa è la frase rivelatoria di una madre col cuore a pezzi, il bacio della buonanotte non ce lo diamo più. 800240024 349-238-6666. E ogni tanto, oltre ai messaggi e oltre alle telefonate, succedono cose come questa. Ciao a tutti, grazie per essere qui. Questo è il Daily News di Auro.108. Sicuramente. Caro Matteo, ho sentito la tua sorpresa l'altro giorno scoprendo che un ragazzo di 13 anni ti ascolta. E allora sappi, sono sicuramente più di uno, perché almeno due sono le mie figlie. Cioè, anche questo. La più piccola, 11 anni, si sdraia sul letto mentre io stiro e ti ascolto. Ogni tanto fa domande su qualcosa che le sfugge, ma io con la mano le dico dopo, perché mi disturba perdermi anche solo due parole. La più grande, 14 anni appena fatti, ti ascolta con meno assiduità, apparentemente, ma gli effetti di questo ascolto sono già visibili, anzi sono udibili. Si è inventata una specie di trasmissione quotidiana su YouTube, fatta soprattutto della sua voce che parla e parla a ruota libera. Durante la puntata, diciamo. Parla di quello che le viene in mente o anche semplicemente di niente. Fortunatamente non tutti i tredicenni sono uguali. Spero ancora che parlerai con molti di loro. Ciao, Luisella. 28 febbraio 2011, ore 3:25 più o meno. Va bene, ora vado a metterlo su coso. Ciao, namaste. Addirittura saluta con namaste. Questa ragazzina ha 14 anni, si chiama Aurora, e più tardi metterò sul profilo Facebook del programma il link di questo suo podcast, possiamo chiamarlo, anche se è su YouTube, quindi è un video, ma di fatto in video c'è molto poco. C'è una parte evidentemente che io sicuramente non conosco dei 14 anni, ma forse neanche voi che ne avete 40 e siete i genitori sapete. Allora magari questa è l'occasione. Certo, probabilmente avrebbe dovuto parlarne Nicoletta Carbone e Alberto Pellai di tutto ciò. E invece va così. Sono le 4 e lo faccio io. 800240024 oppure 349-238-6666. Padri e madri con i figli e figli con i genitori. Accendere il telefono al risveglio e trovare dei messaggi fa piacere, perché c'è qualcuno che ti pensa. Se però sono pubblicità e promozioni, oppure notifiche di movimenti di banca, che di solito sono soldi che se ne vanno, è già meno bello. Se poi c'è da chiamare la segreteria telefonica, per me è una tragedia. Ho sempre odiato la segreteria telefonica, soprattutto quella che devi richiamare tu. Cioè, c'è qualcuno che ti chiama, non ti trova, e invece di riprovare più tardi, ti obbliga ad ascoltare le sue parole. E per farlo, devi pure fare uno sforzo. E non è che puoi fare finta di niente. Cioè, praticamente succede che tu dormivi e uno qualunque ti stava obbligando ad agire. Ecco perché non mi piace. Comunque ieri mi è arrivato un messaggio sulla segreteria telefonica del cellulare, che tra l'altro devo ancora capire come la si fa a togliere, sta maledetta segreteria. Insomma, per non dare subito soddisfazione ho aspettato qualche ora e poi ho sentito che aveva chiamato. Era Giovanni Denaro. Era da un po' che non lo sentivo, era dai tempi della biblioteca. Ed ero contento che avesse chiamato. L'unica cosa che non mi piaceva che mi avesse lasciato un messaggio in segreteria in cui mi diceva semplicemente richiamami. Ecco, questi secondo me sono i messaggi peggiori che trovo in segreteria. Comunque l'ho perdonato e quando l'ho sentito mi ha proposto una cena direttamente per ieri sera, una sorta di rimpatriata dell'ultima ora, con Ciccio e Nonna Papera. Ma quando ho smesso di fare finta di fare il bibliotecario, quel posto lì mi manca. Non ci sono più tornato, ma stavo per farlo qualche mattina fa. Giusto per vedere che effetto mi faceva. Oppure per leggermi un libro, così. Quindi mi sono liberato dell'impegno che avevo ieri, che era un concerto gratis. Ho detto a Natalie che uscivo con quelli della biblioteca e che tanto noi ci parliamo poco e lei deve studiare la morfologia della striscia di Gaza, quindi aveva tempo per venire anche lei. L'ho detto scherzando, ma lei non ha riso. Certo che le donne a volte mi sembra abbiano meno senso dell'umorismo di quanto si dica. Oppure aveva la coda di paglia, non lo so. Io stavo per dirle dai vieni anche tu, poi però ho pensato che si sarebbe sentita di troppo, che noi quattro avevamo parlato delle solite cose, no? Di Pico de Paperis, degli ispettori, del barista, dei raccoglitori di schede. È quello che fanno gli ex colleghi e noi l'avremmo fatto. Quindi l'ho lasciata alle prese con un libro sull'eminente uomo. La cena era a casa di Giovanni, che abita un po' fuori Milano e quindi si può permettere spazi un pochettino più capienti. Lo so perché quando sono arrivato ieri sera verso le 8, quando sono entrato in soggiorno, ho scoperto che era grande come casa mia. Mi fa piacere per lui, anche se la vita del pendolare non fa per me. La cosa che però mi ha sorpreso è stata vedere un tavolo lungo almeno 5 metri, pieno di coperti. Ho pensato, ma scusa, non dovevamo essere solo noi quattro? Questa cosa mi ha messo un po' a disagio. Per un attimo ho avuto paura di essere stato coinvolto in una riunione di Scientology, o di CL, o una dimostrazione di pentole prodotti della Avon. E quindi mi dava fastidio che Giovanni non fosse stato abbastanza chiaro, quindi gliel'ho detto. E lui mi ha risposto che non sapeva che io fossi single, che era una cena per famiglie, cioè ognuno di noi si poteva portare mogli, mariti, fidanzate, figli. E io quindi ho pensato, ma Giovanni, scusa un attimo, ma tu un figlio non ce l'hai? Io nemmeno. E Ciccio e Nonna Papera probabilmente passano le serate a catalogare i propri libri. Di che famiglia stai parlando? La bella risata di Giovanni Denaro da Messina e della sua pallidissima moglie Viola non mi ha tranquillizzato per niente. Ho preso il succo di frutta come aperitivo e mi sono messo in un angolo, ad aspettare. Ma i coperti in fondo non erano tantissimi. Li contavo con la coda dell'occhio mentre passeggiavo per la casa di Giovanni e Viola col mio bicchiere in mano. Loro armeggiavano in cucina e non volevo disturbarli. La casa era colma di piccoli quadretti provenienti dalle più lontane zone del mondo, ricordi di viaggio, fotografie di montagne, di spiagge, insomma, tutti i luoghi. Mai una persona. Un pochettino mi incuriosiscono quelli che non mettono sulle proprie pareti immagini di persone, fotografie, disegni, non importa, ma le persone ho la sensazione che ci debbano circondare, anche quando siamo da soli. E se non lo facciamo forse è perché le persone non ci piacciono. E io un pochettino diffido di quelle a cui non piacciono le persone. Comunque il tavolo aveva 12 coperti, di cui uno lo stavano per toglierlo, era quello di Nathalie, lei non era venuta. Certo, non l'avevo invitata. Nel giro di mezz'ora la casa si è riempita delle due famiglie di Ciccio e di Nonna Papera. Quindi ho scoperto che Ciccio è sposato, ha una bambina di 12 anni, mentre Nonna Papera ha un compagno da cui ha due figli, un maschio e una femmina di 17 e di 14 anni. Ed erano tutti lì. Altro che rimpatriata tra i colleghi, quello era un inferno generazionale. Dopo un avvio rumoroso e divertito in cui ci si è salutati e ci si presentava, ovviamente si rivangavano un po' di vicende della biblioteca, il silenzio degli adolescenti è sceso come una nebbia gelata sulla tavola. Quattro ragazzi fuori posto avevano portato a casa dei musi che avrebbero ammutolito una birreria di Monaco di Baviera. D'altra parte, cosa diavolo ci facevano a quell'età seduti a quel tavolo? Non avevano nemmeno più voglia di isolarsi con la PlayStation portatile. Era chiaro che non avrebbero dovuto essere lì. Solo che questa storia dei genitori, amici dei figli e dei genitori degli altri figli, porta a fare tanti errori. Gli adulti hanno iniziato a cercare di coinvolgere i ragazzi, ottenendo ovviamente l'effetto opposto. I tre si sono vergognati di essere figli di quei genitori e le loro magliette grigie sono diventate nere. Mi sembrava di essere dentro ad American Beauty. Avete presente la scena in cui Kevin Spacey e Annette Bening cercano di chiacchierare con la figlia a cena? Ecco, a quel punto mi sono chiesto che cosa ci facessi io lì. Cioè, mi sembrava che quella fosse la loro guerra privata. Quello era il loro gruppo di lavoro, erano le loro famiglie, era la loro amicizia problematica, erano le loro nevrosi. Io ne ho già abbastanza delle mie, se permettete me ne vado, stavo per dire. E poi a un certo punto Giovanni si è alzato in piedi e con un bicchiere in mano ha detto: finalmente Viola e io aspettiamo un bambino. Ed è anche merito vostro. Grazie. Ecco, e allora lì io ho capito che cosa ci facessi lì. Quindi ho preso il bicchiere di Nonna Papera, me lo sono bevuto anche se non sono a stemmio, e ho pianto. Ma siccome piangevano tutti, in realtà nessuno ci faceva caso, io però sì, perché era da un po' che non piangevo, ed era bellissimo. Io non lo so che cosa mi ha smosso dentro quella notizia, se è un istinto paterno o l'idea che le persone si possano davvero aiutare. Eppure ero solo felice che Giovanni ci avesse tolto dall'imbarazzo di vedere due famiglie disfunzionali pronte a dare soldi a psicanalisti. Forse erano tutte e tre le cose insieme. Il punto però era che ce l'avevamo fatta. Avremmo avuto un bambino. Un nuovo esserino per cui forse c'era già una PlayStation portatile pronta, di fianco a un piercing e a dei vestiti neri, per quando sarebbe diventato un adolescente. Ma per il momento significava solamente una cosa: gioia. She takes me home. She takes me home. I wish I was dead. When I came to, I walk alone. I am not known. Another one sighs when I make ties, ties, ties, ties. Thank you. stufa, che falle mamma, sono più di 1 milione di euro, non ci stanno nel salvadanaio. Ciao ciao. Mi chiamo Agnese, ho 13 anni, ti seguiamo in 4 amiche perché sei chiaro e proponi cose interessanti. Non capisco perché però dura così poco il programma. Poco il programma? Agnese, sono 45 minuti, a me sembra un'infinità. Avevo solo 12 anni, ascoltavo ed intervenivo anch'io in radio. Zapping. Oggi ho 33 anni, sono un medico pediatra e la radio continua a formare la mia crescita. Giuseppe, Giuseppe, non per sminuire la tua storia, ma la cosa incredibile di questo messaggio è che tu avevi 10 anni e a distanza di 23 anni quel programma c'è ancora. Mi chiamo Fabio, non sopporto quando mio padre non mi porta a vederlo giocare la sera a pallone perché dice che torniamo troppo tardi, ma non è vero, ho 12 anni. Fabio, secondo me non è un bellissimo spettacolo vedere tuo padre che gioca a pallone, te lo dice uno che gioca a pallone con della gente che ha l'età di tuo padre, che probabilmente ha l'età di tuo padre, io stesso. Mio figlio 18 anni ascolta Led Zeppelin e Pink Floyd, che piacere, Daniele di Verona. E poi un paio di messaggi. Ciao Matteo, mi puoi tagliare una curiosità? Come mai ce l'hai con Radio DJ? Antonio, non ce l'ho assolutamente con Radio DJ, al contrario, figurati. Anzi, capita di ascoltarla. Anche quelli di Scientology CL sarebbero state delle persone. Assolutamente sì, rivendico semplicemente il diritto di scegliere le persone con cui passare le mie serate. 800240024 349-2386. Avevo chiamato madre e figlia che si trovavano in macchina insieme e madre e figlia sono arrivate. Pronto Lella? Matteo, sei il nostro ciao. Mito, ciao. Lella, ho estradato le mie ragazze al gusto di ascoltarti. Sei carichissima, Lella. Andiamo con una roba una cosa per volta. E quante figlie hai? Due. Di 16 e una di... Però quella di 16 non c'è, sta studiando, la Nina. Annina, invece l'altra? Anna Joy è con me, ne ha 13. Scusami, si chiama? Anna Joy. Anna Joy? Ma con Anna... la... con Joy, la J e con la Y? J-O-Y, Joya in ecco, benissimo. Lella, adesso passamela subito che devo chiedere una cosa. Immediatamente. Pronto? Ciao Anna Joy. Ciao. Senti, che imbarazzo si prova ad avere una madre che ti ha dato questo nome? Nessun imbarazzo. Cioè, vuoi dirmi che nessuna scuola ti prende in giro perché hai un nome che finisce con una J e una Y? No, prima storpiavano il mio nome, però adesso non più, perché continuo a urlarlo dietro le persone, però non più. Più che altro per il cognome, perché è Rus, e quindi... Cioè, ma una roba giusta in famiglia ce l'avete, Anna Joy. Già il nome è complicatissimo. Senti, dimmi cos'è che ti dà fastidio di tua mamma, che non hai il coraggio di dirle, o magari anche sì. Vediamo, che il fatto di essere adulti le dà una posizione in più rispetto a me, magari per prendermi, non so, nel sacco, comunque per farmi delle... Ma poi si oppone, racconta. Sì, vabbè, poi io non sono sempre. Senti, che scuola fai? La seconda media, e a che punto, come sei a scuola, sei brava? Sì, abbastanza, non mi lamento. Quindi da questo punto di vista la mamma Lella non è... No, non è severa da quel punto di vista, no. Senti, invece, dimmi una cosa, come mai tua mamma è così bella carica? No, perché... perché è una mamma positiva e è una mamma carica di suo, sì. È una mamma positiva. Senti, non ti sei mai sentita in imbarazzo per colpa della carica della tua mamma? È un po', però non fa niente. Fammi un esempio, quando? Fuori da scuola... No, se no quando racconta le nostre cose da piccole agli amici tutti si mettono a ridere. Va bene. Senti, ti ringrazio per la chiacchierata, ripassami tua mamma che la saluto. Ok, va bene, ciao Anna. Matteo. Ciao, grazie. Ciao. Pronto Lella? Lella, hanno vietato di accendere la radio. Grazie. No, non vi hanno vietato, altrimenti entra la telefonata, non era per tagliarti fuori. Ti ascolti nel podcast. Lella, grazie mille, complimenti per la tua bimba. Ciao, buona giornata. Adesso ciao, la borsa ciao. E poi adolescenti, figli e genitori. Ah, io sono qui. Mamma, papà, cosa parli? Non mi hai mai capito? Tu non capisci? Se tu capissi mi capiresti. Invece non capisci che non mi capisci. Lo capisci, mamma? Mamma, dov'è la mamma? Vecchia. La mamma è sempre vecchia. Sei vecchissima, ok? Voglio uscire. Muovi le braccia quando cammini, ok? Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in riva a un fiume. È inverno, ci sono le piante con i rami che si sporgono sull'acqua e sono completamente prive di foglie. Non c'è una spiaggia, ci sono dei sassolini e l'erba che arriva. È un fiume del nord Italia. L'acqua è scura, la corrente va verso il fondo della foto e azzardo. È il Ticino. Simone Ferrante, 38 anni. È pomeriggio e fa freddo. Sono seduto sulle sponde del Ticino e ascolto la natura. Io sono qui. L'ho beccato il Ticino, forse perché ci ho passato un'infanzia su quelle sponde. 800240024. Giorgio mi scrive: le cose che non sopporto. Mia madre che storpia le parole. Ad esempio, trolley diventa troller. Beh, però le storpiature delle parole, ragazzi, qua si fanno 10 puntate. Madre che non sa usare il telecomando, nonostante sia lo stesso da 6 anni. Madre che finge di non saper mettere l'allarme per non chiudere le porte di casa. Padre che ti guarda e chiede: cosa stai facendo? Mentre stai facendo cose evidenti, tipo la doccia o stai leggendo un libro. Padre che casualmente dimentica la macchina in strada e ti chiede di metterla in garage, quindi siamo oltre l'adolescenza. Padre e madre che chiedono un corso accelerato su come usare il cellulare, pretendendo che tu conosca a perfezione i menu del telefono e che tu quindi non abbia bisogno di prenderlo in mano e guardare i menu per dare loro delle istruzioni. Andiamo da qualcuno che invece è nel mezzo dell'adolescenza. Andiamo da Gianmarco da Verona, che mi ha scritto: i miei genitori mi rinfacciano sempre il fatto che ho troppi impegni, ma non bisognerebbe dire a quelli che non fanno niente che non va? Pronto Gianmarco? Pronto. Ciao, come stai? Bene, bene. Quanti anni hai, Gianmarco? 13. Perché c'hai la voce di un quarantenne invece? Non lo so. Sei già nella fase che ha cambiato la voce? Sì. Scusa, puoi ridirmi sì? Sì. Sì, esatto. Che impegni hai, Gianmarco, a 13 anni esattamente? Suono il violino, ballo hip hop, ballo house, poi suono in un'orchestra. Il violino in un'orchestra, immagino? Sì. E studi? Cosa fai, terza media? Sì, terza media. Quindi tipo oggi pomeriggio che cosa hai fatto tra tutte queste attività? Sono andato prove d'orchestra, poi ho fatto lezione di violino e basta, poi c'ho da studiare. E senti, e tu ascolti Radio 24 abitualmente? Sì, quasi tutti i giorni, 4 volte a settimana più o meno. In che senso 4 volte a settimana? Ah, perché c'è un giorno in cui hai altro da fare. Ah, infatti. Senti, faccio anche a te la domanda che ho fatto agli altri tuoi coetanei ieri e l'altro ieri. È normale che tipo tu hai degli amici e dei compagni che ascoltano la stessa radio o che ascoltano la radio in assoluto, oppure sei un po' un caso in particolare? Ma non ce n'è tante persone che ascoltano la radio alla mia età, secondo me. Mm. Gianmarco, ti sento alcune, però non particolarmente. Ti sento un po' abbacchiato, Gianmarco, però c'è qualcosa che non va. No, va tutto bene? Sì. C'hai già una fidanzata a 13 anni? Al momento no, ok, però c'è una che è un po'. No. Neanche. Vabbè, non lo vuoi dire, Gianmarco. Non lo vuoi dire, Gianmarco, ma ti capisco. Ti ringrazio molto, fai una buona giornata. Okay, ciao, grazie. Poi ci sono dei genitori che ci provano magari a fare dei regali ai figli e fanno dei danni, come Mauro da Rimini. Pronto, Mauro? Pronto. Ciao. Ciao, sono in linea, sì. Sì, sei in linea, Mauro. Sei un grande. Sei tu, grazie anche tu, Mauro, non scherzi per niente. Senti, tu hai regalato a tua figlia una chitarra. E cosa è successo? Figlio. Tuo figlio, perdonami. Sì. Aveva 9 anni, gli ho regalato una chitarra non richiesta. Mm. Io stesso suono, diciamo, suonavo i sax all'epoca, insomma, niente, ho dato questa chitarra che sembrava che avessi visto un sogno e che forse si realizzava il mio. Dove magari. Sei, Mauro? Sei in mezzo a una strada? No? Era una strada, ho fermato la macchina. Va bene. Senti, quindi, rumori di fondo. Tranquillo, quindi a lui è piaciuta sta chitarra? Tantissimo. E adesso che però, cosa è successo in famiglia? Niente, io quando riguardavo questa chitarra ho guardato nei suoi occhi la gioia, vedevo anche la mia e mi sognavo con lui, ma da grandi forse faremo qualcosa insieme, se andare insieme, sai, quei sogni. Certo, un po' come Simon and Garfunkel, no? Cioè, un padre e un figlio che suonano insieme, ci saranno, non ho idea, ci saranno però. Invece questa chitarra alla fine gli è piaciuta, è andata a scuola di musica, tutto bene, poi a 15 anni ho regalato una chitarra elettrica. E lui è nata anche l'esplosione della passione per la musica rock, fino a diventando un rock importante, che me l'ha un po' allontanato, insomma, quello che ho nei miei idoli. Cioè, quindi fammi capire, tu gli hai regalato una chitarra sperando che fosse un veicolo per avvicinarvi, adesso questo è un metallaro rocchettaro che ode ai vetusti. Sì, sembrava volesse essere per me un mezzo per avvicinarmi, un gancio, una sorta di... Certo, calamita. Certo. Chiaro, facciamo una cosa insieme, ti passo una mia passione. E invece è andato per la sua strada. Mauro, secondo me il periodo metal poi passa. Adesso chiaramente mi attiro le ire di tutti gli ascoltatori metallari, ma il periodo metal passa e arriverà anche lui all'acustica e quindi andrete nei piano bar a suonare. Mauro, grazie mille. Ciao, buona giornata. Mio padre è juventino, mia madre è interista. Quando c'è Juve-Inter in casa mia è una guerra, non li posso vedere, sembrano due ragazzini che litigano. Giacomo. E poi c'è Eleonora dalla provincia di Novara. Pronto, Eleonora? Salve. Ciao, come stai? Bene, bene. Di dove sei? Dalla provincia di Novara, di dove? Varallo Pombia. Sei di Varallo Pombia, dove c'è, che solo quelli della provincia di Novara lo sanno, dove c'è lo zoo Safari. Esatto. Ci sei andata allo zoo Safari? Sì, abbastanza. Per forza, giustamente. Tu hai quanti anni hai, Eleonora? 14. Senti, tu dici, io non riesco mai a capire che cosa dicono i miei genitori. Ho paura che spesso loro non capiscano me. Ma diciamo che in questo periodo stanno succedendo un po' di macelli a scuola. Aia, tipo? Ma tipo... scritte in bagno un po' che non andrebbero scritte. No, fammi capire, che scritte, che tipo di scritte, Eleonora? Praticamente ci sono delle ragazze che insultano altre ragazze e io sono tra quelle ragazze. Se sei tra le ragazze che viene insultata? Un po' tutte e due, diciamo. Cioè, insulti? Anche. Ma scusami, ma qual è il motivo di questa diatriba tra ragazze nei cessi della scuola? E infatti è proprio quello, che secondo me nell'adolescenza fai le cose ma non sai perché le fai. Però, Eleonora, però tu per essere adolescente hai già una saggezza che è quasi da quarantenne, quindi tu dovresti capire primo che non serve scrivere le robe contro le altre in bagno e secondo che magari semplicemente quelle sono invidiose di te. Ma quello non credo. Non credi. Però torniamo ai genitori, scusami. Cosa che non capiscono? Cosa che tu cerchi di spiegargli che loro non capiscono? Ma diciamo che... secondo me è una cosa un po' reciproca, cioè alcune volte ci sono varie incomprensioni su cose che anche sciocchette, ma non lo so, è una cosa difficile, diciamo, da spiegare. Va bene, ho capito, è talmente difficile da dire a loro che è anche difficile da spiegare. Tu che cosa fai, la prima superiore? No, però sono in terza media. Sei ancora in terza media, guarda, allora purtroppo ti sento molto male e ti devo salutare. Solo un'ultima cosa, che radio ascolti tu oltre Radio 24? Diciamo, non ascolto tanto radio perché all'inizio, prima di scoprire il tuo programma, tornando da scuola sentivo mio papà che lo ascoltava. Allora oggi ho sentito questa domanda interessante e allora mi è venuto a chiamare. Va bene, Eleonora, ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao, grazie. E poi, a proposito di traumi che si creano nell'età adolescenziale e che rimangono per tutta la vita, mi è arrivata una mail come questa. Ciao Matteo, mi chiamo Federica, ho 35 anni. In questi giorni sto facendo una riflessione per accumulazione e ti sfrutto per portarla a conclusione. Vorrei raccontarti quello che succedeva a casa mia quando ero intrappolata dietro agli occhi di una bambina, che ora immagino sbarrati a guardare quello che facevano e dicevano i miei genitori nell'educarmi, completamente in loro balia. Dunque, ho una decina d'anni, è primavera, è pomeriggio, siamo in cucina. Io devo imparare il credo, lo devo imparare a memoria. La zia della mamma è seduta lì, con noi, insieme alla mamma, e ascolta. Inizio dall'inizio, non mi ricordo. Inizio da capo, mi areno. La mamma mi aiuta, ne recita un pezzo. Poi si rivolge alla zia e dice che poi io non ci credo neanche. La zia annuisce e ride. Ecco, io in questo stupido episodio vedo tre cose terribili. La prima, l'errore grossolano di insegnare una cosa e screditarla completamente nello stesso momento. Cosa che poi, nel caso particolare, è stata per me foriera di un esagerato spirito critico verso la fede. 2. La piccineria di dire una battuta cattiva per graffiare, invece di trarre conseguenze serie e serene dalle proprie promesse. E quindi, ad esempio, non iscrivere a catechismo ai figli. 3. Il qualunquismo di annuire al proprio interlocutore, di non volere dare nemmeno il minimo fastidio che può dare in un contesto del genere dire «Io no, io non ci credo». È bastato veramente dire semplicemente «E io non ci credo neanche» e questa donna è stata così segnata nella sua vita. Semplicemente occhio. Grazie a Stefano D'Andrea, grazie a Tiziano Bonini, Roberto Scaltritti e Vala Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?